America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York. Mario Platero, Happy Thanksgiving, perché oggi l'America è ferma, a celebrare questa grande festa del ringraziamento. Non tutti sono felici, soprattutto, come sapete, i tacchini, perché è a spese loro che si consuma uno dei pasti più luculliani della storia della cucina americana, molto diverso ovviamente come pasto da quelli tradizionali a cui siamo abituati noi con la cucina mediterranea. Ciò nonostante, pur sempre un pranzo davvero squisito, con al centro appunto questo povero tacchino. Nine decided to stay. Nine little turkeys sat in their pen. Hide turkeys hide, said the little red hen. Ecco, sono partito con questa canzoncina allegra, una canzoncina per bambini, perché il Thanksgiving è una festa intanto che guarda al di là della religione. Ormai è una festa soprattutto laica, una festa che raccoglie etnie molto diverse fra loro. Chiunque arrivi negli Stati Uniti si identifica in un paese sulla base dei valori fondamentali di questo paese, valori che furono portati dai padri pellegrini che sbarcarono col Mayflower in America in fuga dalle persecuzioni religiose in Inghilterra nel 1620. L'anno dopo ci fu un raccolto straordinario, il viaggio fu disastroso, molti morti e così via, così via. Grazie a questo raccolto miracoloso e fantastico, i padri pellegrini decisero di celebrare con una grande festa a base appunto di tacchino, invitando anche delle popolazioni indiane vicine. Stiamo parlando comunque di gruppi ristretti, e ci fu una celebrazione che durò qualche giorno, con al centro questa straordinaria cena. Lo spirito è quello dell'unità, lo spirito è quello dell'essere insieme, le famiglie si riuniscono, è grande atmosfera prenatalizia, col Thanksgiving parte la stagione natalizia, a Rockefeller Center a New York viene illuminato il grande albero di Natale, partono le vendite, col Black Friday c'è l'ultima vendita scontata, insomma c'è una grande atmosfera molto allegra, molto sentita, molto felice. Eppure quest'anno, che devo dire è stato un anno difficile, denso di polemiche di ogni genere, si è riusciti a fare un po' di polemica, un po' di ironia anche sul Thanksgiving. Sentiamo. Thank you all for being here and welcome to the White House, very special place. On behalf of Melania, Barron and the entire Trump family, I want to wish you and all Americans a very happy and blessed Thanksgiving. And I hear that beautiful turkey. Ecco, qui sentite il presidente Donald Trump alla sua prima celebrazione alla Casa Bianca per il perdono tradizionale dei tacchini, tatter e tot. E se non che questa festa alla Casa Bianca in genere è sempre molto allegra, divertente, simpatica, Barack Obama era un maestro, le figlie ridevano, la moglie Michelle svolgeva il suo ruolo, poi si aspettava qualche giorno perché venerdì, il giorno dopo, c'era l'albero di Natale alla Casa Bianca, insomma un'atmosfera, come dicevo, molto prenatalizia. E invece quest'anno Donald Trump intanto ha deciso di andare a Palm Beach, quindi non si è fermato alla Casa Bianca, ma soprattutto in occasione di questa celebrazione del perdono del tacchino, non so come gli è venuto in mente, ma si è messo ad attaccare proprio Barack Obama. Dice: non farò come il mio predecessore, il mio perdono è un perdono che vale davvero. Non si è capito bene a cosa si riferisse, ma non è sembrato di ottimo gusto, come dire, lanciare una frecciata comunque generica a Barack Obama nel momento in cui lui, come presidente di tutti gli americani, deve semmai amplificare il valore, la valenza di questa festa nazionale così importante. Ma non è stato soltanto alla Casa Bianca che si è fatta un po' di polemica. E qua devo tirare le orecchie al New York Times, che così, sempre sotto l'insegna della correttezza politica, cosa ha fatto? Si è messo a pubblicare alcune storie, in particolare un articolo che dice come il Thanksgiving è tutto finto, non c'era niente di vero, è una festa inventata, e dunque smettiamola con queste fandonie. Merlo! Merciful Father, we bow our heads in gratitude on this our Thanksgiving Day. We give thee humble and hearty thanks for this thy bounty. Ecco, a fronte di, qui ho fatto ascoltare uno spezzone di un film, molti film, canzoni che celebrano questo Thanksgiving secondo quella che ormai è la tradizione consolidata, e Maya Sam del New York Times ha deciso di sentire un sociologo californiano il quale, nel nome della correttezza politica, dice: ma no, guardate, non c'è documentazione precisa che ci conferma che c'è stata in effetti una festa con gli indiani, anzi chissà, magari gli indiani li hanno pure uccisi o li hanno tenuti da parte, pensate, alcuni di questi indiani sono stati venduti come schiavi, e poi allora non c'era neanche il tacchino, al massimo si saranno mangiati forse chissà un'anatra oppure un'oca, che così hanno beccato nel momento in cui cercava di migrare verso sud. Ecco, devo dire, ma un po' sorpreso questo articolo, ma sì, sappiamo che molte di queste feste hanno delle radici così fantastiche, ma è proprio per quello che ci piacciono, è come se il giorno di Natale qualcuno decidesse di scrivere che Gesù Cristo non è nato quel giorno lì, ma è nato in estate. Insomma, non va, secondo me, questa cosa non va. Il New York Times ha sempre pubblicato una serie di articoli, tra cui questa volta di giornalisti che così raccontano della loro esperienza, tra cui quello di Viet Thanh Nguyen, che è un reporter, un giornalista di origine vietnamita, il quale dice che lui spiega al figlio che la festa del ringraziamento, del Thanksgiving, non è tanto legata alla storia dei pellegrini quanto al genocidio degli indiani. Secondo me si tratta di un'eccessiva manifestazione di correttezza politica, quella che ci porta poi alla richiesta persino di abbattere la statua di Cristoforo Colombo, perché anche lui con gli indiani non aveva un ottimo rapporto. Insomma, questo è stato un anno non facile per gli Stati Uniti d'America, un anno dove il dialogo è stato sempre molto aggressivo. Io credo che sarebbe stato meglio, in occasione dell'arrivo del Thanksgiving, cercare di archiviare tutto quello che è successo di così brutto, di così amaro, di così divisive, come si dice da queste parti, per invece lasciarsi andare a quello che è il sogno di una festa che idealmente e materialmente, perché poi quando il Thanksgiving arriva davvero ci si riunisce tutti attorno a un tavolo in un'atmosfera molto divertente e rilassata per promuovere quei valori, quelli che ci uniscono, piuttosto che quelli che ci dividono. Ci sarebbero molti altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma resta pur sempre la nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, voglio dedicarla a Dmitri Hovorovsky, un cantante lirico, un baritono che purtroppo ci ha lasciato ieri a 55 anni, malato di cancro. Ha dimostrato grandissimo coraggio dopo essersi ritirato dalla lirica nel 2015 e poi ritornato sul palcoscenico, e più recentemente qui a New York, proprio nel maggio scorso. Era sorridente, era in ottima forma, sembrava che le cose andassero meglio, amatissimo dal pubblico, purtroppo. E poi il cancro è tornato e non ce l'ha fatta. E dunque a lui dedico la canzone di oggi, in un duetto bellissimo con Sumi Joe, in cui interpretano un classico della musica lirica americana, Tonight, tratto da West Side Story di Leonard Bernstein. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!